Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo chiaramente di petrolio. Oggi è leggermente risalito a 38 dollari il barile, ma insomma la notizia di questi giorni di un petrolio che continua a perdere valore mediamente e che sta anche sotto i 40 dollari al barile. Lo dico perché giustamente sul Sole 24 Ore Alberto Negri, che avremo tra poco ospite, denuncia, tra virgolette, o sottolinea un paradosso, ossia nel momento in cui la crisi medio orientale è alle stelle, e ad essere buoni, visto che poco fa appunto il Pentagono ha dichiarato che con l'ISIS è in corso una guerra vera e propria, beh, dicevamo, nel momento in cui le tensioni sono alle stelle nell'area medio orientale, irachena, anche se abbiamo chiarito che l'ISIS non ha il controllo della maggior parte dei pozzi o di una parte rilevante dei pozzi petroliferi, e che tutto il mondo islamico è in movimento, per essere anche in questo caso buoni, beh, il petrolio continua a perdere valore. E in realtà è un finto paradosso, perché alcune volte abbiamo già raccontato come si è arrivati a questo, la scommessa che per ora sta perdendo dell'Arabia Saudita di portare il petrolio a un livello così basso da espellere i produttori americani e quell'autosufficienza nell'approvvigionamento di energia che l'America ha raggiunto in questi anni, grazie anche allo shale oil e quindi alle forme di estrazione petrolifera che non siano il classico pozzo e la trivella. Per quello che riguarda invece i temi di casa nostra, tiene ancora banco, scusatemi il gioco di parole, la vicenda delle banche. Perché? Perché da un lato c'è una bella ricostruzione anche di Fabio Pavesi su quante volte la Banca d'Italia avesse messo in guardia i vertici, in questo caso la ricostruzione è sulla Popolare dell'Etruria. Però faccio notare oggi il commento di Alessandro Paterotti sul Quotidiano, dove sostanzialmente si dice una cosa: siccome il governo sta pensando a un cosiddetto fondo umanitario per venire incontro ai risparmiatori, 130.000 almeno, coinvolti dal salvataggio, diciamo del sì, circa 130.000 dal salvataggio delle quattro banche, e quindi Popolare Etruria, Banca Marche, Cariferrara e Carichieti, con un danno che è calcolato intorno ai 780 milioni per le obbligazioni subordinate e 2 miliardi sulle azioni. Oggi su Sole 24 Ore si sostiene, attenzione, perché un fondo umanitario vorrebbe dire di fatto scaricare su tutti i cittadini italiani quello che è il salvataggio per gli investimenti fatti in quelle quattro banche. Uno dice sì, ma e pone non pochi problemi anche sulla sua applicabilità, cioè in base a che cosa stabilisce che uno abbia diritto a un risarcimento. Si pensava alla parte, diciamo, in primo luogo obbligazionaria. Gli azionisti dovrebbero essere ben consapevoli del rischio che prendono quando comprano azioni anche di una banca. La parte obbligazionaria, c'è la maggiore possibilità di dire erano strumenti che andavano venduti in base alla direttiva MiFID solo a risparmiatori particolarmente consapevoli, quindi formati. Il problema è che non si capisce bene come si stabilirà l'asticella, cioè in base a quanto hai perso, in base alla tua età, come fai a dimostrare che diciamo, tu non avessi realmente capito i rischi che andavi a prenderti anche sottoscrivendo quell'obbligazione. E si fa notare che esistono comunque già gli strumenti per le cause risarcitorie. Ma soprattutto che il messaggio che verrebbe diffuso è che sostanzialmente, al di là di quello che ha stabilito la direttiva sul bail-in, cioè nel caso di una cattiva gestione della banca le conseguenze non le paga più lo Stato e quindi i cittadini, ma le pagano azionisti, obbligazionisti junior e anche senior, cioè le pagano tutti quelli che hanno investito in qualche modo in questa banca, o prestando soldi con le obbligazioni o comprando capitale con le azioni. Dicevo, va contro questo approccio e potrebbe lanciare un messaggio abbastanza ambiguo e controproducente, e cioè, attenzione, la banca non può fallire, si crea un precedente, a che serve valutare i rischi di un'obbligazione, di un titolo, se tanto la perdita è poi coperta con l'aiuto di Stato. È un tema interessante perché da un lato occorre tenere assieme la critica a come queste obbligazioni sono state vendute, a come queste banche sono state gestite, con l'idea però di non dare un messaggio, possiamo dire, raffazzonato, cioè il governo in un consiglio dei ministri di domenica straordinario arrivò con questa decisione. Oggi c'è una dichiarazione anche della Banca d'Italia che fa sapere che fu l'Unione Europea a bloccare il fondo interbancario di tutela dei depositi nel salvataggio delle quattro banche per la preclusione manifestata dagli uffici della Commissione Europea, da noi non condivisa, cioè la Banca d'Italia era invece per utilizzare il fondo interbancario di tutela dei depositi. Sempre Barbagallo, che è il capo della vigilanza in Banca d'Italia, in un'audizione della Commissione Finanze della Camera, ha precisato oggi che la vigilanza della Banca d'Italia sulle quattro banche in crisi è stata continua, di intensità crescente al peggioramento della situazione aziendale, e che erano già state comminate sanzioni pecuniarie nei limiti massimi consentiti dalle norme, 8 milioni e mezzo di euro per le quattro banche. Parleremo anche di questo, perché ripeto, un conto è criticare, l'abbiamo fatto pesantemente, la gestione di queste quattro banche, i nomi anche dei responsabili, di chi li gestiva. Altra cosa è dire, va bene, anche questa volta carichiamo i danni di quella gestione sulla collettività e quindi sullo Stato. Gli 800 milioni sarebbero pagati da noi tutti, con, ripeto, il rischio di creare un precedente. Parleremo anche della vicenda Audi. Oggi per l'Audi c'è una buona notizia, apparentemente, o meglio, per la vicenda per la Volkswagen. Le manipolazioni sui valori di CO2 riguarderebbero solo 36.000 auto. Questo che è un numero di gran lunga inferiore alle cifre inizialmente fornite dalla stessa azienda Volkswagen, che segnalavano in circa 800.000 i veicoli possibilmente coinvolti. Il titolo ha preso a guadagnare anche in maniera insistente la borsa di Francoforte, è arrivato a guadagnare oltre il 5%. Poi parleremo anche dei dati sulle emissioni. 349-238-6666 per i vostri sms e per WhatsApp. La pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Andiamo avanti con la notizia. Vedo anche molti messaggi sul tema del petrolio. C'è chi dice, ma guardi che in realtà l'Arabia Saudita sta aiutando gli Stati Uniti, scrive un ascoltatore su WhatsApp, se riuscisse a riprenderlo, sta aiutando gli Stati Uniti a far cadere tutti i governi di sinistra del Sud America. Non so, mi sembra un po' spinta come teoria. Quello che sappiamo è che se c'era una scommessa per arrivare a buttare fuori i produttori americani, questa scommessa l'Arabia Saudita la sta perdendo. Ma andiamo con ordine. Per quello che riguarda il petrolio, dicevamo a $38 al barile, la borsa più 0,25% Milano, meno 0,45 Parigi, meno 0,37 Francoforte, più 0,40 Londra, più 0,70 il Dow Jones. Euro su dollaro a quota 1,09, quindi mantiene il rafforzamento realizzato poco prima del fine settimana. Tra i titoli, Saipem più 2,10, Tenaris più 1,70, Eni più 1,5%, Enel Green Power più 1,46% ed Eni più 1,44%. Questo può in parte sorprendere, ma in realtà i petroliferi si stanno muovendo molto anche su incrementi marginali del prezzo del petrolio. Poi per quello che riguarda Enel c'è l'attesa per una cessione che dovrebbe arrivare entro Natale delle centrali del nucleare in Slovacchia. Bene anche Buzzi Unicem più 1,22, Tod's più 1%, Ferragamo più 0,90%, male Mediaset meno 2,80, Popolare di Milano meno 2%, Campari meno 1,5%, Telecom meno 1,30, Iux meno 1,20, Mediobanca meno 1% come CNH Industrial. E visto che parliamo di economia anche internazionale, al di là della bozza dell'accordo di cui parlavano anche i nostri GR24, l'accordo sul COP21, quindi la conferenza ONU sul clima, il presidente, nonché ministro degli esteri francese, ma presidente del COP21, Laurent Fabius, ha detto infatti che si sta arrivando a una nuova versione, a una nuova bozza per un accordo, restano le opzioni aperte. Dicevo, l'altra notizia di carattere internazionale molto forte riguarda Dow Chemical e DuPont, ossia i due principali gruppi chimici americani sono in trattativa per una fusione che dà sostanzialmente 120 miliardi di dollari. Lo ha scritto il Financial Times. Dopo la fusione, il nuovo colosso chimico verrebbe diviso in tre nuove società. Dow ha una capitalizzazione di mercato di 60 miliardi di dollari, DuPont di 59. Dati che arrivano dalla Cina dopo un quinto mese consecutivo di calo dell'export cinese, meno 6,8% anche a novembre, male anche le importazioni in Cina, meno 8,7%, tredicesima flessione nelle importazioni cinesi, che per noi vuol dire esportare meno verso la Cina. È comunque un miglioramento, il meno 8,7% di novembre, visto che a ottobre fecero il meno 18,8% le importazioni cinesi. È ripresa un po' l'inflazione, ma sono ancora calati i prezzi alla produzione di tanto, il 6%, a dimostrazione, secondo molti osservatori, che c'è anche un eccesso di capacità produttiva in Cina. Chi invece non ha problemi di inflazione come ha l'Europa è il Brasile. Per la prima volta dopo 12 anni, ahimè, in Brasile l'inflazione è tornata ad essere a due cifre. In un anno l'inflazione è arrivata al 10,48%, il livello più alto dal novembre del 2003, quando toccò l'11%. Il tetto massimo stabilito dal governo è pari al 6,5%, ma anche a novembre i prezzi hanno fatto un più 1% rispetto al mese di ottobre. Alcuni di voi mi chiedono di Angela Merkel in copertina al Time. È assolutamente una scelta del Time, che la giustifica sul ruolo avuto da Angela Merkel durante la crisi dei migranti, soprattutto per quel poco che può valere e per quello che mi riguarda. Il giudizio sulla gestione tedesca, che poi non era solo Angela Merkel, era anche soprattutto Schäuble e Weidmann, della crisi e della vicenda greca, resta dal mio punto di vista invariato, cioè totalmente negativo. Altro giudizio non lo può dare, ci mancherebbe, sulla gestione da parte di Angela Merkel dei flussi migratori e le lezioni che ha dato anche altri paesi europei. Quello è un altro piano e ci mancherebbe, però insomma non è che cambi quello che è stata la gestione la valutazione di quella che è stata la gestione della Grecia e in generale, diciamo, dell'applicazione di Maastricht. Siamo in tema Europa e quindi segnalo che anche le esportazioni tedesche hanno segnato una flessione ad ottobre, meno 1,2% dopo un rialzo del 2,6% a settembre. Ci si attendeva un calo più contenuto. In forte discesa anche le importazioni, meno 3,4%, resta un forte surplus commerciale di 22,5 miliardi di euro. Arriveremo alle misure proposte anche dal governo. Quanto ha detto è oggetto della seconda ora del programma, quanto ha detto il ministro Padoan ieri, stiamo studiando le misure di tipo umanitario che vadano incontro alle necessità delle fasce più deboli. Vedo gli ascoltatori molto divisi tra chi dice insomma non è giusto che paghino i contribuenti per i rischi presi e la cattiva gestione di quegli amministratori e per i rischi che si sono presi quei correntisti, o meglio quei risparmiatori che hanno investito nelle quattro banche. Altri dicono no, attenzione, le banche non è che rischiano il fallimento perché gli azionisti, gli obbligazionisti ci hanno investito i soldi, ma perché sono state male amministrate. Quindi sì, diciamo che esiste anche l'azione di responsabilità nella vita verso gli amministratori. Addirittura abbiamo notato la settimana scorsa, anzi lunedì, che ad Ancona veniva organizzato un tour da parte di un tour operator sotto casa dell'ex numero uno di Banca Marche, per cui insomma da questo punto di vista c'è anche chi la butta così nel lato più folcloristico. Arriveremo al tema. Secondo me occorrerebbe tenere assieme due cose, cioè andare a azioni di responsabilità sugli amministratori serie che diano anche una lezione una volta tanto, e però anche stare attenti a non fare in modo che il rimedio sia peggio del danno, oltre al compenso del buso. Cioè se noi diamo l'immagine che tanto ogni volta verranno salvati azioni, in questo caso obbligazionisti, tu ti chiedi vabbè, ma perché poi domani dovrebbe andare a valutare con molta attenzione l'obbligazione che la banca gli propone. Mi scrive un ascoltatore, leggo, sono un consulente finanziario, le posso garantire che è alquanto difficile fare compilare la direttiva MiFID ai clienti. Se non sono io ad insistere nello spiegarglielo, loro la firmerebbero senza manco leggere e compilarla. La MiFID è troppo complicata per i piccoli risparmiatori. Gianluca da Parma. Ho capito, però insomma, quando uno mette dei soldi si prende anche la briga di leggersi la direttiva MiFID. Ho capito che è complicata, se la fa spiegare. Insomma, è la direttiva importante, ne parleremo più avanti. Perché è così importante la MiFID? Perché è quella che stabilisce che alcuni strumenti finanziari particolarmente a rischio e complicati debbano essere, impone agli intermediari di vendere ai clienti solo prodotti di cui possono capire la rischiosità e con importi sostenibili in funzione del reddito. Ecco perché è importante che uno la legga. Comunque 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo col tema petrolio, però. Allora vedo continuano gli sms di chi dice beh insomma per le obbligazioni argentine mia mamma ottantenne persi i soldi, era una sfruttatrice di un povero stato, cioè perché lei no e gli altri sì. Altri scrivono ma chi se ne frega degli obbligazionisti di queste quattro banche, io ho perso i soldi in altro genere, nessuno ha pensato. Sì, si rischia di aprire un precedente. Comunque andiamo con ordine. Petrolio. Allora, scrive bene Alberto Negri, una guerra al contrario, oggi sul Sole 24 Ore. Un tempo bastava l'accenno di un conflitto in Medio Oriente per alzare le quotazioni e rimpinguare le casse dei paesi produttori. Oggi il paradosso è che proprio mentre soffiano i venti di guerra, e non sono più che venti, è guerra vera e propria, almeno secondo il Pentagono poco fa, il prezzo del petrolio non solo non risale, ma scende anche sotto i 40 dollari al barile. Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, voce nota a Radio 24 perché segue, ahimè, per lui i conflitti, soprattutto in giro per il mondo. Buonasera Alberto. Buonasera a tutti voi. Piccolissima premessa, quando è iniziato questo braccio di ferro cosa era successo? Era successo che gli Stati Uniti sono riusciti a ottenere attraverso, se non posso rifarto alla storia, attraverso lo shale oil, quindi altre forme di estrazione di petrolio, sabbie bituminose, rocce dell'Alaska, quello è sono riusciti a ottenere la quasi totale autosufficienza energetica. A quel punto, in una riunione dell'OPEC, Arabia Saudita impone la sua linea, la faccio un po' breve ma per farmi capire, e dice, bene, e decide che il prezzo del petrolio non verrà mantenuto alto e quindi non verrà ridotta la produzione di barili, è l'unico modo in cui tu puoi mantenere alto il prezzo se riduce la produzione di barili. Perché? Perché in questo modo punta a mandare fuori mercato i produttori, le società anche minori di petrolio, chiamiamolo così, alternativo, non quello classico del pozzo della Trivella nel Texas. Supponendo che, come molti osservavano, sotto i $70 al barile non sarebbe stato più conveniente, cioè non sarebbero più riusciti a stare in piedi economicamente, visti gli investimenti fatti. Già uno dei massimi esperti di petrolio, Leonardo Maugeri, editorialista del Sole 24 Ore, ci spiegò in diretta che era un azzardo, perché non è vero che tutti i produttori di quel tipo di petrolio dovessero avere un prezzo sopra i $70 per stare in vita. Ma il dato di fatto è che apparentemente questo braccio di ferro l'Arabia Saudita l'ha perso, perché in questo caso il petrolio continua a scendere. Tu hai parlato, Alberto, di un'Arabia Saudita che fa saltare il banco dell'OPEC, e tra l'altro Riyadh ha perso solo nei primi sei mesi del 2015 150 miliardi per il calo dei prezzi. Perché è un paradosso solo apparente, tornando alla domanda iniziale? Ma il paradosso è solo apparente per due motivi. Allora, uno è di natura politico-militare e l'altro di natura economica. Perché l'Arabia Saudita ha forzato la produzione in un periodo in cui la domanda di petrolio comunque si contraeva, visto la crisi mondiale? Perché aveva due obiettivi davanti. Il primo, appunto, politico, che era quello di stendere al tappeto l'Iran, cioè il fronte sciita che è in guerra contro i sunniti in Siria e in Iraq. Il secondo era e poi di conseguenza anche la Russia, che è un alleato di Assad. Il secondo era quello di fronteggiare l'ascesa dello shale oil americano, perché come tu giustamente dicevi, i sauditi che calcolo avevano fatto? Che sotto una determinata quotazione, $60-70 dollari al barile, lo shale oil che viene estratto dalle rocce di scisto andasse fuori mercato. È stato un calcolo sbagliato. Perché? Perché innanzitutto la dinamica stessa della shale oil è molto più breve di quella dell'estrazione petrolifera tradizionale, cioè non si fanno prima le esplorazioni, poi si comincia a trivellare, poi prima che un pozzo vada in attività ci vogliono alcuni anni. Questo succede generalmente quando si estrae dai pozzi normalmente. Ma il gas di scisto è una perforazione, come dire, brutale, immediata, che entra in produzione subito e quindi alla fine ha costi di esplorazione industriali inferiori a quelli dell'estrazione tradizionale. Quindi questo shale oil americano non solo non è uscito di produzione e dal punto di vista utilitaristico dall'obiettivo delle compagnie, ma non solo, ma è aumentata l'estrazione di shale oil. E per esempio il Nord Dakota, dove è iniziata questa attività, oggi produce 1.200.000 barili di petrolio al giorno, poco meno di quelli che produce il Kuwait, tanto per fare un esempio, no? E quindi in questo modo loro, gli sauditi, in realtà hanno abbassato le quotazioni, ma a questo punto il mercato è sfuggito di mano e in qualche modo hanno insistito per mettere ancora di più spalle al muro l'Iran, cancellando un po', come dire, congelando la questione delle quote. Il cartello dell'OPEC era nato da una cosa molto semplice, cioè i paesi produttori controllavano la produzione, ne distribuivano le quote per ogni paese in modo che il mercato potesse assorbire questo petrolio e ci fosse una quotazione appetibile del prodotto. Bene. I sauditi hanno distrutto in qualche modo un cartello che durava da 55 anni e adesso non c'è più un mercato regolamentato e praticamente siamo di fronte a una sorta di anarchia internazionale sui mercati, che in qualche modo rispecchia comunque anche purtroppo il conflitto che c'è nel Levante e in Medio Oriente. Allora, alcuni mi scrivono, voi complicate sempre le cose, il prezzo va sempre giù perché l'offerta è enorme mentre la domanda è debolissima. Guardi che non funziona esattamente così. Intanto l'economia mondiale, per carità, rallenterà rispetto alle previsioni di crescita, ma continuerà a crescere. È vero che la Cina rallenta, ma l'America sta andando bene. Ma soprattutto non è la prima volta che il prezzo del petrolio non viene fatto solo dalla domanda all'offerta, so che sembra strano, ma viene fatto dalla produzione. Allora la domanda che io ho per Alberto Negri dopo il metro, la pubblicità, è, diciamo, è chiarissimo il tuo racconto su come si è arrivati a questa situazione. Quello che, diciamo, lascia più perplessi, ancora più perplessi, è che dopo il fatto che non hai ottenuto effetti per oltre un anno, no, con questa politica del buttare fuori mercato i produttori americani, che poi sono anche produttori piccoli delle volte rispetto alle grandi multinazionali, adesso recentemente negli ultimi giorni hai deciso come OPEC di mantenere invariate le quote produttive a 30 milioni di barili al giorno. Insomma, è meno comprensibile dopo che la strategia ha fallito tutti questi mesi, e vorrei sempre dopo il metro dopo citare una tua risposta anche sul ruolo di Venezuela e Algeria, perché insomma, le pressioni lì sono arrivate, sembra che l'OPEC in realtà faccia rima solo con Arabia Saudita. Dopo il meteo. State ascoltando un programma offerto da Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Focus Economia. minuti. Allora, vedo che molti si spingono anche in altre analisi, c'è chi dice appunto in realtà l'Arabia Saudita sta aiutando gli Stati Uniti in questo modo a distruggere Venezuela e ciò che resta del chavismo, altri dicono no, lo fanno anche per rallentare la parity, la convenienza con le rinnovabili, mantenere il petrolio comunque una fonte per quanto inquinante ma conveniente. A chi ci chiede sui prezzi alla pompa, devo dire che oggi sono di nuovo calati dopo i ritocchi dei giorni scorsi. L'8 dicembre si erano mossi infatti Total Erg e Kuwait, un centesimo in meno sia benzina che diesel. Però Alberto Negri, la domanda che avevo lasciato in sospeso era, intanto se vuoi commentare anche queste ipotesi che fanno gli ascoltatori, ma perché l'Arabia Saudita continua a insistere? Cioè i motivi iniziali, gli sciiti, l'Iran da un lato e lo shale oil americano hanno generato questo braccio di ferro per oltre un anno, ma adesso nell'ultima riunione OPEC? Allora, la spiegazione è semplice e brutale allo stesso tempo, e si chiama guerra. L'Arabia Saudita sta perdendo la guerra in Yemen contro i ribelli sciiti, o perlomeno non la sta vincendo. Questo Yemen è diventato una sorta di Vietnam all'islamica, non ci saltano fuori, non solo, ma stanno perdendo anche la guerra in Siria e in Iraq, e soprattutto in Siria, perché pensavano di riuscire 4 anni fa, insieme alla Turchia e agli altri alleati arabi, di abbattere in pochi mesi Bashar Assad. Non solo questo non è avvenuto, ma adesso si trovano pure la Russia nel Levante, che minaccia anche di tirare delle bombe nucleari. Capite bene che questa gente lotta per sopravvivere, e non potendo vincere una guerra convenzionale, perché non ci riesce, cerca di perlomeno di creare dei problemi con una guerra economica, cioè abbattendo i prezzi del petrolio e mettendo in difficoltà sia la Russia che l'Iran. Se poi entrano in difficoltà altri paesi, questi sono i cosiddetti danni collaterali di questa guerra alla rovescia, dove mentre 30 anni fa, quando ci fu la guerra del Golfo contro l'Iran, da parte di Saddam Hussein il petrolio schizzava, invece adesso crolla. Perché è questo il motivo vero. Non c'è un motivo solo economico, ma c'è soprattutto un motivo bellico. Quindi tu dici che motivo, quello che succede a Venezuela è un danno collaterale, per cui attenzione. Prego. Ma pensate a cosa gliene può importare a quelli che stanno a Riyadh o a Doha di quello che succede in Venezuela. Certo, è importante, ma signori, qui si sta combattendo una guerra, qui ci sono stati 250.000 morti, qui ci sono stati attentati terroristici in mezzo al cuore dell'Europa. È evidente che si sta combattendo un conflitto con tutti i mezzi, e la guerra economica e quella del petrolio fa parte di questa guerra. Alberto, stante il tuo scenario e la ricostruzione in cui adesso pesa di più, diciamo, combattere la guerra contro sciiti e Assad, che non, se ho ben capito, che non quella contro i produttori americani, se ho capito bene, in questa fase della vicenda, tu ti aspetti che a questo punto ci possa essere, perché io dicevo, l'OPEC, è vero che l'Arabia Saudita è il partner principale, ma non è fatto solo dall'Arabia Saudita, che ci possa essere il tentativo di forzare la mano dentro l'OPEC, oppure l'Arabia Saudita continuerà a mantenere un petrolio tra i 35 o 40 dollari al barile finché non avrà avuto i suoi effetti? Ma qui le cose stanno nei fatti. Le cose stanno nei fatti e sono questi. Cioè, se si continua a produrre e l'Arabia Saudita e gli altri paesi continuano a produrre per incassare, beh, l'aumento dell'offerta ci sarà comunque. Teniamo presente poi che ci sarà la fine delle sanzioni all'Iran. Si presume che questo famoso Implementation Day arriverà verso metà gennaio. Questo significherà in maniera quasi immediata l'arrivo sul mercato di altri 500.000 barili di petrolio iraniano. Cioè, tutti stanno cercando di vendere per incassare. E a questo punto il sistema delle quote, cioè che in qualche modo calmierava la produzione di ogni membro dell'OPEC, è già saltato e ognuno va per conto suo, per quello che si parla di anarchia, e per questo presumibilmente per qualche tempo il prezzo del petrolio resterà basso. Ma attenzione, non è una tendenza di oggi, è una tendenza che è già cominciata un anno e mezzo fa. Sì. E quindi è evidente che siamo di fronte ha delle strategie, chiamiamole così, se vogliamo nobilitarle, che portano a una situazione di questo tipo, in cui i paesi produttori ormai vanno ognuno per conto suo. Ecco, su questo un'ultima domanda per te, Alberto, in maniera un po' cinica, fermo restando che questa è una valutazione solo economica, non di carattere strategico e politico, perché le conseguenze della guerra che si sta combattendo contro i terroristi dell'ISIS e non solo, e anche contro Assad e contro i curdi, dipende chi combatte questa guerra, ha delle conseguenze politiche enormi oltre che umanitarie. Però da un punto di vista solo economico noi potremmo anche pensare, vabbè, ma tutto sommato per un'eterogenesi dei fini a noi questa cosa può convenire come Italia. Attenzione, perché l'orizzonte non è così roseo come sembrerebbe. È chiaro che per i paesi consumatori come noi, come tanti altri, un prezzo del petrolio più basso porta a dei vantaggi immediati, ma attenzione, perché innanzitutto i paesi produttori entreranno in crisi, alcuni paesi produttori, si citava prima il Venezuela, ma anche l'Iran. Questi sono paesi che avrebbero bisogno, per tenere i loro bilanci in ordine, di un petrolio 70-80 dollari, quindi parliamo già di nazioni, di stati che potrebbero in qualche modo trovarsi in difficoltà con conseguenze economiche e politiche. E anche la Russia, aggiungiamo, perché il prezzo del gas si lega parallelamente e segue in maniera pedissequa il prezzo del petrolio, prego. Esattamente, anche la Russia, ma tanti altri paesi. Poi, non solo. Questo fatto che il petrolio diventa così basso in qualche modo influisce anche sugli investimenti degli stessi stati del Golfo, dei sauditi, dei kuwaitiani, dei catarini, che come sapete bene con i loro fondi di investimento, con i loro fondi sovrani si sono comprati in mezzo Europa. Sì. Si sono comprati in mezzo Europa e addirittura adesso sono andati a ritirare della liquidità da questi fondi sovrani, quindi questo avrà delle conseguenze economiche. E poi c'è una terza conseguenza che potrebbe essere negativa, cioè gli utili delle compagnie petrolifere scenderanno. Questo che cosa significa? Significa che ci saranno alcuni marchi che probabilmente potrebbero anche sparire dal mercato, ma non solo questo, saranno diminuiti gli investimenti per nuove risorse energetiche e anche per le stesse energie rinnovabili, perché sono le quindi stesse in parte, in parte ha ragione l'ascoltatore che diceva, attenzione, in questo modo diventeranno sempre meno convenienti le rinnovabili, questo è chiaro. Esattamente, perché ci saranno anche meno utili per investire in queste energie rinnovabili da parte dei gruppi energetici, certo. Qui, per questo che io dico, il futuro di questa guerra economica, che è il riflesso di una guerra politica, ideologica e religiosa dentro il Medio Oriente, ha delle conseguenze anche per noi. Grazie, grazie per la capacità di analisi, oltre che per il resto. Ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, c'è il traffico adesso. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Focus Economia. Sì, poi vedo molti commenti che dicono, sì, tra l'altro questa guerra rischia di mettere in grosse difficoltà Eni, da noi, insomma, Descalzi ha detto in maniera molto chiara che insomma questo prezzo del petrolio rende tutto più difficile. Ha detto prezzi così bassi sono pericolosi per il settore, l'effetto è infatti una significativa riduzione degli investimenti che comporteranno una ripresa dei prezzi nei prossimi anni, cioè non investi adesso per esplorare e avrai meno petrolio nel futuro. Ma devo dire che i vantaggi per noi si vedono molto poco. Un po' per, l'abbiamo spiegato molte volte, 70% sono IVA e accise sul prezzo della benzina e del gasolio, ma i prezzi dell'energia vanno giù molto molto modestamente, un centesimo adesso, e non ne usciamo, non torno sul tema di come si muovono i prezzi del petrolio, della benzina rispetto ai prezzi del petrolio. Vedo molti complimenti e mi riassocio ad Alberto Negri. Nel frattempo vorrei fare sia la borsa che Volkswagen. Allora partiamo con Andrea Malan del Sole 24 Ore. Partiamo con la borsa, che è più veloce oggi. Esaurito il tema dei titoli energetici, ciao Condina, Radio Cori Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Saipem più 1,70, Tenaris più 1,30, Enel, lì sono le centrali nucleari slovacche, no? A portare il titolo in rialzo dell'1%, però l'indice ha girato nell'ultima mezz'ora, guadagnava lo 0,20, meno 0,20 in chiusura. Sì, cioè, diciamo che oggi le borse comunque si sono mosse veramente in simbiosi con le quotazioni del greggio, anche se poi i titoli migliori sono stati petroliferi. Infatti non appena il greggio è tornato a flettere nuovamente, aveva toccato i $39 al barile il WTI, le borse hanno nuovamente invertito rotta dopo un'accelerazione, diciamo, attorno alle 16, e hanno chiuso praticamente tutto in negativo. Milano guadagnava mezzo punto percentuale, poi alla fine sono arrivate le vendite soprattutto su Mediaset e sulle banche, in particolare sulle popolazioni. Per quello che riguarda le popolari, andiamo su Pop Milano meno 2,40% e Popolare Emilia Romagna anch'essa in difficoltà. Pesano le indiscrezioni che aveva rilanciato nei giorni scorsi sulle 24 ore di possibili nuovi approfondimenti della BCE sugli ultimi aumenti di capitale lanciati da queste banche. La BCE vorrebbe effettuare nuove verifiche, capire se i soci, come è avvenuto in altre situazioni, in altre banche, non siano stati finanziati dalle stesse banche oggetto di aumenti di capitale per sottoscrivere le azioni. Insomma, sono tutte incognite che hanno alimentato le vendite su questi titoli. Scusatemi, ancora Telecom, praticamente il titolo ha chiuso meno 1,70%. Sale diciamo l'attesa per l'assemblea del 15 dicembre, saranno tante le situazioni da verificare. C'è JP Morgan che ha una posizione lunga del 10%, poi c'è Vivendi che ha chiesto di aumentare i posti in CDA, ovviamente punta ad avere dei posti in CDA, e poi in più c'è anche Xavier Niel, che proprio oggi il magnate francese è emerso, che ha posizioni, ha investito 225 milioni di euro in posizioni legate ai derivati, e potrebbe avere fino al 15% di Telecom. Ancora, e poi staremo a vedere, l'assemblea insomma sarà fondamentale. Per quello che riguarda gli altri titoli, tra i più sottili, segnalo un titolo che è Mondo TV più 8,40%. Sì, questa mattina il presidente, ma anche il socio di maggioranza Orlando Corrado, ha dichiarato di aver arrotondato la propria partecipazione di controllo, arrivata al 45,5%, il mercato l'ha preso come un segnale di fiducia nei confronti dell'azienda, e insomma sono arrivati gli acquisti sul titolo. Come giustamente hai sottolineato tu, si tratta di titoli molto sottili, quindi bastano pochi acquisti per far schizzare in alto la quotazione. Poi Mondo TV France più 5,40, Ross più 5,20, Beghelli più 4,30 e Mondadori più 3,50. Fronte opposto invece Gas Plus meno 7,50, Invest meno 6,40, Lerion meno 6%. Non ho dato i migliori della giornata, anzi sì, li abbiamo dati. Saipem più 1,70, Tenaris più 1,30, Enel più 1%, aggiungo Toz più 0,80 come Enel Green Power, Eni più 0,70 come Salvatore Ferragamo. Tra i peggiori invece oltre ai titoli citati, anche Campari meno 1,90 e CNH Industria meno 1,60, Anima meno 1,1 come Mediobanca, il Monte dei Paschi, Luxottica perde lo 0,90, peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione, Mediaset meno 3%, cioè. Beh, diciamo che su Mediaset non ci sono motivi particolari per, diciamo, per queste vendite. Il titolo veniva da un fino a qualche settimana fa era arrivato ben oltre quota 4 euro, poi evidentemente c'è qualcuno che ha pensato di realizzare i guadagni anche in attesa di quelli che poi saranno i risultati definitivi delle diciamo delle sottoscrizioni di abbonamenti premium, da cui dipende poi diciamo anche il bilancio poi economico della pay TV di Mediaset. Grazie a Ceo Condina. Noi restiamo in tema anche di borsa, visto che in Germania il titolo Volkswagen ha guadagnato oltre il 5%. Allora, Andrea Malan, adesso le 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Poi ti riprendo, nel senso ti riprendo in diretta, non ti riprendo come un richiamo, perché siamo sotto GR24. Ma è vero che non sarebbero più 800.000 le macchine incriminate, ma 36.000? Abbiamo scherzato? Sì, stiamo facendo riferimento non allo scandalo A, diciamo, quello scoperto agli americani a settembre sul software truccato, ma allo scandalo B, quello dichiarato dalla stessa Volkswagen sulle emissioni di CO2. Sì, certo, CO2. Questo qua infatti non sarebbero più 800.000, ha dichiarato la stessa azienda oggi, ma 36.000 i veicoli, e quindi il costo per l'azienda non sarebbe più di 2 miliardi di euro, ma una cifra imprecisata, ma sicuramente molto molto inferiore. Allora resta con noi Andrea, perché insomma io capisco tutto, ma sbagliare tra 800.000 e 36.000 vuol dire che o non sai quello che produci o hai dei cani che fanno i conti. Dopo il GR24 e poi parliamo anche delle quattro banche salvate e della proposta... Debora, ti piacciono ancora le favole? Mi piacciono sì, soprattutto adesso che è quasi Natale, ne stiamo scrivendo una insieme. Io, te, i nostri ascoltatori e Andrea Vitali. Eh sì, sino alla vigilia di Natale daremo vita a una grande favola collettiva. Ogni giorno, all'interno di Cuore e Denari, io darò un incipit nuovo e i nostri ascoltatori potranno completarlo scrivendo un pezzo di favola sul sito di Radio 24. Il migliore verrà poi letto in trasmissione e riceverà il nostro libro Secondo Canto di Natale. State ascoltando un programma offerto da Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Andrea Malan, ci hai anticipato la notizia. Secondo la Volkswagen, la manipolazione B, come tu l'hai chiamata, non quella incriminata negli Stati Uniti per prima e quindi le centraline delle macchine Volkswagen, ma le manipolazioni sui valori di CO2 riguarderebbero, se ho ben capito, solo 36.000 auto e non le 800.000 inizialmente coinvolte. Il titolo ha guadagnato molto la borsa di Francoforte, ma non è un po' strano essersi sbagliati così tanto? Chiedo. Dunque, sì, è molto strano. Volkswagen intanto dice che non sono manipolazioni ma errori. Quello che azzardo un'interpretazione, ricordiamo che il comunicato è stato dato circa un mese fa, allora in quel momento, nel pieno dell'altro scandalo, quello più grosso che riguarda 11 milioni di motori diesel, quello delle centraline, a un certo punto probabilmente Volkswagen ha cominciato a fare dei test a tappeto, ha riscontrato qualche divergenza nei numeri rispetto ai valori dichiarati, nei numeri di consumo ed emissioni di CO2 che ricordiamo sono direttamente proporzionali, e ha detto potenzialmente ci sono 800.000 auto interessate, vi faremo sapere, e il potenziale costo è di 2 miliardi di euro, questo sempre nell'idea, nell'intenzione di mettere le mani avanti e di sparare subito le cifre più grosse scalando dopo. Ed è esattamente quello che è successo. A controlli fatti, dice Volkswagen, in realtà le auto interessate sono 36.000, sono 9 modelli, scusate, questo solo per la marca Volkswagen, poi ce ne sarà qualcun altro per le altre marche del gruppo, per cui dice ci sono delle divergenze di 1 o 2 decimi di litro nei consumi per 100 km, quindi invece di fare di consumare 6,1 litri poniamo ne può consumare 6,2 o 6,3 al massimo. Questo è quanto è stato dichiarato oggi. Di conseguenza gli eventuali risarcimenti, se qualcuno volesse comunque fare causa a Volkswagen per queste dichiarazioni non corrette, sarebbero necessariamente più bassi, perché ci sono meno auto coinvolte e perché il danno per il consumatore che abbia acquistato un'auto del genere è molto minore. Quindi una notizia positiva, di qui, come hai detto tu prima, il balzo in borsa di oggi. A questo punto possiamo ricordare che dai minimi sotto i 90 euro il titolo è risalito a 130 con un guadagno quindi dai minimi di quasi il 50%, anche se rimane ancora molto al di sotto dei 162 euro che valeva prima dello scoppio della madre di tutti gli scandali. Sì, diciamo. Anche perché i dati, come abbiamo raccontato con te Andrea, di queste settimane sull'andamento delle vendite sono contrastanti, cioè sono molto calate negli Stati Uniti, meno 25% rispetto a un anno prima. In Germania hanno fatto meno 2, in Italia hanno fatto un più 27 e in Francia un più 4%, quindi dire, questo lo dico per parlare anche del titolo, che il danno sia inequivocabile per la Volkswagen è obiettivamente approssimativo e forse anche prematuro. Grazie intanto a Andrea Malan del Sole 24 Ore. Cambiamo tema invece e andiamo sul tema delle quattro banche salvate, di quello che sta capitando. Prima di arrivare al ragionamento fatto da Alessandro Praterotti, che dice attenzione, il fondo umanitario rischia di avere degli effetti, dei messaggi dannosissimi per chi investe, per i risparmiatori, di creare un precedente. Vorrei però rispondere a un'altra domanda che molti di voi ci fanno su Banca Marche, Banca Etruria, Cari Ferrara e Cari Chieti, visto che sono coinvolti 130.000 persone molto collocate in quelle aree e il valore, il danno per gli obbligazionisti è di 788 milioni, le obbligazioni subordinate azzerate come valore, poi ci sono gli azionisti che valgono 2 miliardi, ripeto, l'azionista obiettivamente non me la sento dopo tutto quello che è successo in questi anni qualcuno mi sta criticando per questo, di spezzare una lancia fuori dell'azionista, perché dice, senti, se compri azioni di una banca devi sapere che l'azione è sempre a rischio, anche di perdere il 60, 70, l'80% del capitale. Per cui altra cosa è l'obbligazionista che fa un prestito, l'obbligazione è un prestito che tu dai in questo caso una banca con un tasso di interesse. Prima di arrivare a questo però vorrei con Fabio Pavesi, che ringrazio, buonasera Fabio. Buonasera. Ricordare quello che tu hai raccontato sulle verifiche fatte dalla Banca d'Italia, perché nel caso della Popolare Etruria c'è un fattore aggravante ulteriore, e cioè arrivò una proposta di acquisto, diciamo così, della Popolare di Vicenza, che ora uno verrà da ridere perché la Popolare di Vicenza è messa male, ho capito, ma a quel tempo la Popolare di Vicenza offriva un euro per azione, l'azione valeva già 75 centesimi, sì. Quindi offriva più del 30% del valore di mercato. Quello che ci stanno scrivendo molti ascoltatori è che i vertici della Popolare Etruria non convocarono un'assemblea, decisero tutto in base al direttivo, e quindi insomma, nemmeno dando la possibilità agli azionisti di rifiutare questa offerta. Ma tu sei andato oltre andando a vedere tutte le cose che aveva raccontato la Banca d'Italia e ti anticipo una cosa. Tu scopri che i 13 ex amministratori e i 5 ex sindaci hanno cumulato della Popolare Etruria 198 posizioni di fido per oltre 185 milioni, sì, di cui utilizzati 142 milioni da questi soggetti, i 13 ex amministratori e i 5 ex sindaci. 90 milioni di quelli prestati con questi fidi diventarono incagli per la Popolare Etruria. Che cos'altro scoprì la Banca d'Italia in queste ispezioni? Beh, scoprì che i conti erano abbelliti, nel senso che la banca aveva già molte posizioni di credito che non sarebbero rientrate, e però per far figurare uno stato di miglior salute non le metteva a bilancio, tant'è che la Procura di Arezzo sta indagando sul bilancio del 2012, che è il bilancio che cominciava a occultare queste perdite. Il tema del risparmiatore è proprio quello, cioè io investo in un'obbligazione subordinata perché mi comunicano delle informazioni sullo stato di salute della banca. Se però quello stato di salute salute della banca non è veritiero, io sono stato tra virgolette truffato, perché non avevo le informazioni corrette perché il mio investimento avesse un senso. E questo è il grande tema. Cioè, io vado in banca, mi propongo un'obbligazione subordinata, mi danno un prospetto informativo che mi dice che la cosa può essere a rischio, tutto giusto. Però spesso, e parliamo di piccoli clienti, spesso piccoli soci, spesso gente che aveva mutui e fidi, intanto c'era un rapporto fiduciario con la banca, ma soprattutto si fidavano delle informazioni date sul bilancio della banca. E se però la banca teneva crediti malati come se fossero buoni, è ovvio che lo stato di salute della banca non era rilevato correttamente. Questo è un problema di mancata informazione, che è grave, perché è come se tu dai una visione distorta in positivo dello stato di salute della tua banca. Quanto agli amministratori, beh, è grave, nel senso che anche lì l'offerta è la Vicenza. Se ti arriva un'offerta di acquisto, posto che forse la Vicenza non aveva i soldi, ma questo col senno di poi, va valutata. Bene, la valutarono in quattro persone, cioè i vertici della banca decisero che non gli andava bene, la banca doveva rimanere toscana, e quindi quasi sdegnati dissero: no, l'Etruria è sana, è solida, non capiamo perché deve essere comprata da un'altra banca. E col senno di poi è stata una iattura per tutti gli azionisti, perché avrebbero portato a casa un euro operazione, oggi è zero operazione. Anche lì devi convocare un'assemblea e decidere, visto che i soci contano una testa un voto. E poi Banca d'Italia scoprì tutti i conflitti di interesse, cioè quando un amministratore coinvolto in altre attività sue imprenditoriali poi si fa prestare i soldi alla banca, la cosa grave è che poi quegli stessi soldi non li ha restituiti alla stessa banca, era una posizione di vertice dentro l'istituto. Chi era? Beh, erano un po' tutti alla fine, i 13 amministratori. Vengono fuori due nomi, Luciano Nataloni e Lorenzo Rosi. In particolare la relazione di Banca d'Italia cita solo questi due consiglieri, perché avevano attività in un supermercato a Pescara che poi, come dire, è andato male, e quindi quei soldi non sono rientrati. La cosa grave, al di là della dimensione dei prestiti, è che molti di questi erano diventate poi sofferenze per la banca. Ecco, e poi tu citi anche il fatto delle spese in consulenza per 15 milioni di euro, incarichi forniti sulla stessa materia a diversi professionisti, e poi largheggia nei compensi ai suoi vertici. Sì. Negli ultimi 5 anni consiglieri e sindaci, oltre ad aver avuto questi fidi, incassano oltre 14 milioni di euro, mentre la banca ne perde quasi 300 milioni. Sì, è una questione di proporzioni. Io posso essere anche strapagato purché la banca vada bene, quindi dia ricchezza anche agli altri, ma se la banca mi sta andando a rotoli e io mantengo quei compensi stratosferici, insomma, grida un po' vendetta questa cosa. Che poi ci fosse del malaffare e della cattiva intenzione, lo si capisce anche da quello che tu racconti, cioè le persone adibite al recupero crediti erano solo 19 su tutti i dipendenti. La banca ha 1900 dipendenti, non si capisce perché, visto che il problema erano i crediti che non rientravano, tu impieghi solo l'1% a forza lavoro a recuperare i crediti. O meglio, si capisce perché alcuni tanto non potevano rientrare. Alcuni evidentemente non erano toccabili. Ora voglio essere molto chiaro, questo è il tema della gestione di questa, della Popolare Etruria Lazio. Devo dire che mutatis mutandis potremmo fare ragionamenti analoghi, non identici, anche per Banca Marche, cari Ferrara e cari Chieti. Altra cosa è il salvataggio cosiddetto messo in piedi dal governo e l'ipotesi del fondo umanitario, perché qui cambiamo tema, qui c'è una responsabilità degli amministratori, abbiamo fatto nomi e cognomi tutte le volte, per avere, non per sbaglio, non perché hai sbagliato un investimento, hai fatto un future sbagliato, no, perché tu hai prestato soldi a chi non te li poteva ridare con criteri non bancari ma criteri relazionali, per essere buoni amici, amici degli amici e quant'altro, ti sei riempito di bonus il salario, hai speso 15 milioni in consulenze, non si capisce perché, o meglio si capisce, e ti sei preso pure le linee di fido della banca. Altra cosa è quello che deve succedere adesso, ne parliamo dopo il traffico. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Focus Economia. Si tratta di misure di tipo umanitario che vanno incontro alle necessità delle fasce più deboli di risparmiatori che sono stati coinvolti da questa operazione di risoluzione. Non ha nulla a che fare con l'operazione finanziaria in quanto tale. L'Europa potrebbe avere delle obiezioni se questa misura fosse considerata parte dell'operazione di risoluzione, ma non lo è, e sono due cose completamente separate. Oh, così il ministro Padoan ieri, quando ha in qualche modo annunciato che il governo sta pensando a un'operazione di tipo umanitario. Dico subito una cosa, piano con le parole sono importanti, perché le operazioni di tipo umanitario si fanno in caso di alluvione, terremoto, migranti, insomma, qui c'è tutto tranne che un'emergenza appena scoppiata, non è... ripeto, non è solo un investimento sbagliato, ci sono quattro banche mal gestite, pessimamente gestite. Però oggi Alessandro Platerotti, che ringrazio per averci raggiunto in collegamento, buonasera a voi, buonasera Alessandro, dice una cosa un po' diversa, se ho ben capito. Attenzione, perché si crea un precedente se tu vai, a parte che non si capisce come darai i soldi a chi, in base all'età, in base a quanto investi e quant'altro, ma si crea un precedente per cui tutti noi paghiamo per le scelte di investimento fatte dagli obbligazionisti in primo luogo e poi anche dagli azionisti di queste banche. Faccio l'avvocato del diavolo, cioè dico cosa obiettano gli ascoltatori, perché avevo già anticipato in parte. Dicono, beh, insomma, la MiFID, chi riesce a capirci qualcosa di sta MiFID, non è quando vado al panificio devo leggere tutte le istruzioni di come è fatto il pane. Altra cosa, alcuni scrivono adesso, anche dopo l'intervento di Fabio Pavesi, beh, ma se i bilanci erano abbelliti, truccati, non dicevano la verità, io come facevo a investire dal punto di vista con informazioni falsate? Che colpa ne ho io? Qual è il tuo punto, che poi è un punto fondamentale, al di là del giudizio pessimo sulla gestione di queste quattro banche? Il mio giudizio è questo, che chiunque di noi è pronto a finanziare, anche a privarsi di parte del proprio reddito, prelievo fiscale, quello che volete, per gli stati di necessità delle persone che effettivamente hanno subito un danno naturale. Un altro aspetto, quando si opera sul mercato finanziario e si comprano bond subordinati, io ho chiesto personalmente, ma ho chiesto anche ad altri, non si comprano tutti i risparmi in bond subordinati, quindi già questo mi lascia perplesso. Ma il principio è un altro: tutta questa manovra che abbiamo fatto sulle banche, che ha fatto l'Europa e l'Italia sulle banche, è nata per l'opposizione che c'è da parte di tutti i parlamenti nazionali d'Europa a mettere continuamente soldi di Stato sulle banche. Io ricordo per gli ascoltatori che nel complesso, negli anni che vanno dal 2008 al 2014, sono stati messi 3.500 miliardi di euro a garanzia dei salvataggi delle banche europee. 3.400 miliardi di euro degli stati corrispondono al 30% dell'intero prodotto interno lordo d'Europa. Di fronte a queste cifre c'è stato lo scandalo. A noi tutti basta mettere soldi del contribuente per il salvataggio delle banche, e questo si è fatto. Cioè è passato il principio che ognuno è responsabile delle azioni che fa, anche sulla banca o su un mercato. Morale, mi trovo adesso che scatta questo principio e che cosa vedo? Vedo che la gente dice, ma i poveri investitori, non risparmiatori, si chiamano investitori, che hanno perso i soldi con gli bond subordinati o le azioni di queste banche, vanno risarciti. Domanda. Non solo questo, ma quindi vogliamo riportare i soldi del contribuente per salvare chi, per colpa, per dolo, per irresponsabilità o mancanza di cultura, ha commesso degli errori? Allora io dico questo. Perché per me è grave il comportamento del governo? Perché sia il ministro dell'economia Padoan che il presidente del Consiglio Renzi hanno difeso l'operato delle autorità di Consob e Banca d'Italia in pubblico e in Parlamento, dicendo che tutti si sono comportati correttamente. Allora la mia domanda è questa: se si sono comportati correttamente, perché chiedono a noi contribuenti di andare a risarcire delle perdite di soggetti privati che hanno stipulato un contratto con un altro privato? Questo qua è un precedente gravissimo, perché mi domando, ma se domani altre quattro popolari o altre quattro banche o altre due popolari, ma dobbiamo pagarli sempre noi i rimborsi a chi perde soldi sulla borsa? Dopodiché, domanda finale, perché il principio è tutto lì, ma che cosa, se è responsabile, se lo Stato, se il governo, il Parlamento ritengono che le autorità siano comportate bene, allora non c'è bisogno del fondo di indennizzo, altrimenti è implicitamente un'ammissione di colpa da parte del governo sull'operato della Banca d'Italia. E allora questo apre uno scenario ancora più grave. Ci vuole coerenza, e soprattutto bisogna far capire in questo momento che i soldi sono una coperta molto corta, e quando si chiedono soldi ai cittadini oggi lo si deve fare per la sicurezza, per diminuire le tasse, per capitoli di spesa che sono di utilità collettiva, non per risarcire chi ha messo dei propri soldi ed è sempre pronto a girare il vasetto dello yogurt per guardare la data di scadenza, ma il foglio su cui ha messo 30.000 euro dei propri risparmi non l'ha nemmeno aperto. Allora, su questo io sono d'accordissimo con te, anche perché è vero che la direttiva MiFID, a questo fa riferimento Alessandro Praterotti, è complicata, è scritta in banchese. Ma non è il problema, perché ci sono gli avvocati apposta, il lavoro degli avvocati. Faccio un esempio che mi porta un ascoltatore, anche il bugiardino dei farmaci è scritto in maniera complicata, però di solito tutti noi, a meno che non sia un farmaco veramente, andiamo a leggere pur sapendo che è complicata leggere. Allora, quindi il fatto dell'ignoranza del prospetto informativo, quanto mi scrivono alcuni promotori, questa non si giustifica. Il fatto però che chi ha sottoscritto obbligazioni, io vorrei restare sull'obbligazione perché sull'azione non ho nessun tipo di commiserazione, le subordinate, chi ha prestato i soldi alla banca attraverso le obbligazioni e magari non era un risparmiatore così formato, sa che l'obbligazione, di solito l'obbligazione di una banca è sempre, non era così perché c'è scritto nel prospetto che in caso di fallimento tu perdevi, però è più facile irretirlo. Se poi i conti sono abbelliti e tu o truccati e tu fai aumenti di capitale a un valore più alto, uno ci può cascare. Sì, però il problema, ritorniamo a dirlo, nessuno ti costringe a dare dei soldi a qualcun altro se tu non lo vuoi. Allora, nel caso in cui ci sia stata una falsa rappresentazione dei rischi, ritorniamo sulla legge, si va da un avvocato e gli si dice: questo è quello che mi hanno dato, questo è quello che mi hanno descritto, l'onere della prova ricade su chi fa causa, per cui dovrei dimostrare di essere stato ingannato. Ma è quello che farebbe qualunque altro cittadino in ogni parte del mondo. È successo così in America, è successo così in Inghilterra, è successo anche in Germania per alcuni casi. Allora, per quale motivo chi ha subito un danno vuole rivalersi sulle tasche del vicino di casa invece su chi ha commesso il reato? Questo è un principio che non può più passare, e ripeto, anche come dici tu, per un principio di equità, ma forse gli obbligazionisti Parmalat subordinati hanno preso dei soldi? Chiedo. La domanda è a Fabio Pavesi. C'è stata una causa legale lunga 10 anni, qualcosa è stato recuperato. No, ma il tema, in tribunale? Il tema è la Consob, nel senso che è vero che era scritto che potevano essere pericolose, però è anche vero che andrebbero fatto dei controlli a valle, cioè se qualcuno ha sbagliato e che non mi basta tu mi scriva, mi interessa anche tu vigili sul comportamento, tant'è che ci sono alcune sanzioni per il mancato rispetto della MIFI, forse è mancato questo aspetto del controllo finale. Allora, purtroppo anche là, andando a guardare, si trovano su internet, che è di accesso pubblico, tutto quello che stiamo cercando. Ho trovato due sentenze straordinarie, una del 30 ottobre 2014 e una del novembre dello stesso anno. 2015 è toccata a Banca Marche, Consob e Banca d'Italia hanno massacrato di multe sia la Banca Popolare dell'Etruria che la Banca Marche per quello di cui stiamo discutendo. Quello che dice oggi la Banca d'Italia. Ma possibile che... Allora, quando diciamo invitiamo la gente, aprite i giornali e leggeteli, perché non lo scrivemmo? È mai possibile? Ultimo punto, si pone un problema in Italia che si era già posto in America con Lehman Brothers, e chiudiamo qua. Non è possibile affidare una doppia vigilanza sullo stesso soggetto. La Consob vigila solo sulle obbligazioni, ma la Banca d'Italia sull'emittente. Basta, serve un solo vigilante come hanno fatto in America. E con questo chiudiamo veramente da Sebastiano Berzoni, le auguro buona serata. Ci sentiamo domani alle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.